che si intitola Verità e segreti. A noi interessano soprattutto i segreti, soprattutto. Del Covid-19, le ondate della pandemia. Hai capito? Okay. Una roba leggera stasera. Allora, il libro non è solo mio, è di 38 autori. E i curatori, io sono una delle curatrici, assieme a Elena Grimaldo di Venezia, un'altra psicoterapeuta che spero che dopo possiamo sentire perché ha sfornato un altro libro, e Roberto Pozzetti, che è uno psicanalista lacaniano di Como. Lacaniano, sì. Accidenti, sai, sì. Che Lacan andava molto di moda nelle facoltà di belle arti, non ho mai capito bene perché. Tu Pasquini lo sapevi questo? No, non lo sapevo, e nel frattempo mi stanno telefonando e mi ero dimenticato hanno di già, abbassare hanno già la suoneria. Ho iniziato a chiedere consulenze psichiatriche perché ai nostri ascoltatori... Ecco, avete sbagliato il numero, sì. Glielo dico subito. Perfetto. Allora, io sono una psicoterapeuta di Bologna, sono venuta qua tante volte, non è che... Allora, il libro come nasce? Il libro nasce a giugno dell'anno scorso. In realtà... vuole illustrare le storie della pandemia in prima persona, ma soprattutto anche il lavoro che abbiamo fatto noi psicologi, perché si parla del lavoro degli infermieri, dei medici candidati al premio Nobel, ma noi, io ad esempio, io collaboro con varie strutture in maniera interdisciplinare, quindi anche noi abbiamo avuto una certa rilevanza sia nel volontariato nell'aspetto pubblico e privato. Quindi sono nate molte esperienze in prima linea, a partire ad esempio dal lavoro che abbiamo fatto nelle RSA, nel lavoro che abbiamo fatto negli ospedali e nel lavoro clinico con i pazienti affetti da Covid. Ad esempio, molti di noi hanno seguito con una terapia online pazienti e famiglie affetti da Covid, anche in forma molto pesante. Il libro però non si ferma qui, e quindi ci sono tutta una serie di storie, e per fare appunto mettere in rilievo quanto sia stato importante il nostro lavoro e quanto è importante, perché gli studi successivi indicano che i disturbi psicologici post pandemia sono aumentati vertiginosamente. C'è molto lavoro per noi, ma è un lavoro che forse nessuno di noi avrebbe voluto avere, che anche un po' dipende dal fatto che noi non abbiamo rispettato la natura. Noi siamo, questa è una catastrofe della naturale, non è come... Qui si parla molto anche di emergenza, non è una catastrofe provocata dall'uomo come può essere una guerra, ma dipende dal fatto che noi siamo in fondo animali, e quindi non avendo rispettato questo nostro essere animali, essere in contatto con la natura, ci sono delle conseguenze, state delle conseguenze. Noi dovremmo riscoprire questo nostro essere parte della natura. Questo è anche uno spirito un po' guida, che al di là dei vaccini, al di là del fatto che ci saranno sicuramente in futuro altre pandemie, dobbiamo essere parte della natura. Noi abbiamo prestato servizio e anche con i medici sicuramente, che sono stati in prima linea, e nel libro ci sono tre parti fondamentalmente. È un libro che sta avendo una risonanza abbastanza anche politica, La prima parte appunto racconta le storie della corsia, della prima e della seconda ondata. Quindi chi ha contratto il Covid e il personale, sì, che se ne è occupato, diciamo. No, scusa, le storie della malattia. La storia della malattia, la prima, seconda, chi ha quindi contratto il Covid o familiari che hanno perso, amici, parenti o anche storie molto, molto complesse. Ad esempio c'è la storia di Giovanni Niccoli, che è un malato oncologico che ci racconta la sua storia di 24 tamponi, prima positivi, poi negativi, poi purtroppo l'abbiamo deceduto, quindi storie anche molto pesanti. Per non dimenticare tutto quello che è successo nel 2020. Poi la seconda parte invece si concentra sul lavoro delle storie appunto della corsia, quindi il lavoro dei medici, il lavoro degli infermieri, il lavoro anche di personale non sanitario, il lavoro a contatto ad esempio con l'RSA, con la protezione civile, dei medici che sono stati coinvolti proprio nei reparti in prima linea, e anche di psicologi che hanno lavorato. La terza parte, che è la più interessante, invece è il lavoro di noi psicologi. Il lavoro di noi psicologi con tante storie cliniche che partono ad esempio dal mio, che racconta che... Io leggo qua il titolo, che secondo me è già evocativo, quindi lo leggo testualmente, sì. I sogni e l'immaginario dei pazienti in psicoterapia nel 2020. Sì, però io ho continuato un po' a analizzare i sogni perché durante... e le varie fasi della pandemia si è sognato molto di più, c'è proprio uno studio neuropsicologico e i sogni si ricordano molto di più. I sogni possono essere fondamentalmente sogni compensatori, quindi con un significato di speranza, oppure sogni contagiati, quindi sogni in cui possiamo questo da parte sia di coloro che hanno avuto un isolamento e da parte dei pazienti, sogni contagiati, quindi con elementi disturbanti. Naturalmente, ad esempio, uno dei temi fondamentali nell'ultimo periodo sono stati i vaccini, ma qui si è creata anche una bella fobia sociale che dipende dal significato proprio del farmaco, del vaccino. Il vaccino è un farmaco, quindi il farmaco ha due componenti: da una parte è un elemento salvifico, ma dall'altra parte ha un elemento che è quello del veleno. Quindi quando noi ci affidiamo a un farmaco, in fondo ci affidiamo o a un medico o al governo, però a seconda della nostra personalità, a seconda, dobbiamo proprio affidarci, e talvolta l'elemento del l'elemento del veleno è presente in tutti i farmaci. Non esiste un farmaco senza effetti collaterali. Ma d'altra parte, cioè, il cibo stesso preso in dosi smodate e senza alternanza, no? Cioè, tutto quello che noi ingeriamo ha anche una componente che può diventare tossica. Cioè, c'è sempre su questo crinale. C'è sempre questo crinale. Ma vi interrompo per un po' di musica, se non vi dispiace. Così alla brutta. Volevo dire, avremmo potuto, però, visto che avevamo parlato all'inizio del nostro essere animali, io vorrei in scaletta, posso esprimere un desiderio? Probabilmente no, visto che oggi mi sono dimenticato la chiavetta dei ma io non l'avevo previsto, jingle. Quindi okay. te lo mando così, i Cranberries Animal Instinct, è uno dei miei pezzi preferiti, se lo reperisci da qualche parte prima o poi nel corso della trasmissione ci starebbe, se no ci possiamo provare, cantatelo mentalmente tra voi e voi. E adesso invece ti faccio sentire i Mystery Jets con A Billion Heartbeats. Why does it take a tragedy to make our true colors come out? We only feel the life in our limbs and a heartbeat beneath the skin when time is running out. But there's love. Ogni tanto Coxo Spaziale si occupa anche di cose di cui non ha alcuna competenza. Esatto. Se non empirica, perché poi chi non ha avuto una crisi psicotica nella propria vita? Tu, per esempio, sei costantemente in questa situazione. Io sono in crisi psicotica totale, da sempre. Anzi, la tua psicosi sarebbe forse la normalità, come per molti dei nostri afficionados. Esatto. Che invitiamo a messaggiarci sul 333 180 94 94, perché ebbene sì, malgrado abbiate sentito ore di nastrone prima di noi, siamo in studio e abbiamo le ospitesse, le ospitesse, io sono un po' indeciso, il 5 luglio. Oggi è il 5 luglio, sono il 19:21 e siamo a Coxo Spaziale, questa è Radio Città Fujiko. Stiamo cercando di reperire il numero di telefono di una delle coautrici di questo interessante libro che stiamo presentando insieme a Maria Letizia Rotolo e Luana Giannini, Verità e segreti del Covid-19. Una delle coautrici è Elena Grimaldo, una delle curatrici di questa pubblicazione che adesso lo sto chiamando, stiamo per chiamare in diretta, così guarda che ha un titolo interessante in latino. latino, noi che approfondiamo così spesso il latino. Homo homini virus. Okay. Scritto. È già qua. Ciao, ciao Elena. Sei in diretta. Ciao. Ecco, avete, adesso ciao. Già che siamo in diretta, dove, ti, ecco. Avvicino al microfono. Sì, ecco, abbastanza, un buon po'. Un buon, okay. Po'. Bene. Un buon po'. Sì, ci sentiamo, ti sentiamo benissimo. Vuoi raccontarci qualcosa tu o del libro, oppure anche del tuo libro? Sì. Allora, volevo fare entrambe le cose, nel senso che allora c'è all'interno del libro Verità e segreti del Covid-19 un articolo che ho scritto rispetto alla sensazione che ho avuto, che ho vissuto nel momento in cui pensavo di avere il Covid. E quindi il titolo è Matriosca, la quarantena durante l'isolamento, uno dei più belli. In cui ho raccontato la difficoltà di gestire la parte legata alla maternità, perché comunque ero in isolamento e i miei figli erano dall'altra parte della casa, e la difficoltà dell'essere donna, insomma, nei confronti della mia casa, del mio lavoro che ho dovuto stoppare, e dell'essere umano, nel senso che per quanto riguarda tutta la parte dei sintomi, ho cercato di tenere sotto controllo quelli che potevano essere le difficoltà, insomma, la mia salute. E quindi in questo testo, come le matriosche, che sono queste bambole una dentro l'altra, ho raccontato la difficoltà di essere donna, e di essere mamma e di essere anche una libera professionista. La matriosca, tra l'altro, è una delle icone di uno dei movimenti femministi del momento, di non una di meno, quindi penso che le nostre ascoltatrici capiscano perfettamente il tema a cui alludi quando dici matriosca. Io sono una delle conduttrici di questo programma, l'altra conduttrice Stefano W. Pasquini, tu non ci vedi, ma noi ci siamo e ti ascoltiamo con grande interesse. I titoli dei tuoi pezzi sono molto interessanti, molto artistici. Li posso leggere tutti, uno dietro l'altro, poi parli di quello che vuoi. Ah, sì, per allora, me va benissimo. Matriosca, la quarantena durante l'isolamento, Homo homini virus, prima e seconda ondata e la mascherina e il volto. Quindi sono tutti titoli molto, molto evocativi. Non c'è neanche un altro. E ce n'è anche un altro che mi è sfuggito e che ce lo dice adesso. Maria Letizia Rotolo. Dietro lo schermo? Dietro lo schermo, fantastico. Quindi hai centrato un po' i punti nodali di questa pandemia. Sì, allora questa della matriosca ve l'ho un po' svelato, poi se volete leggere, insomma, Homo homini virus, perché in questo periodo storico sempre di più Homo homini lupus, perché le persone si maltrattano una con l'altra, c'è poca fiducia, scarsa comprensione, e in quel momento storico che ho scritto il testo ho pensato invece all'aggressività del virus, perché era proprio stavamo proprio vivendo queste morti, questo virus, questa malattia, e la difficoltà di entrare in contatto uno con l'altro anche solamente nel scambiarsi due parole, non so, la fermata dal parcheggio piuttosto che a fare la spesa. E quindi la contagiosità era molto molto molto elevata, e quindi mi è venuto quasi naturale pensare alla velocità di trasmissione di questo virus, come se in realtà effettivamente gli uomini potessero essere per gli altri uomini virus, e quindi una malattia. In realtà invece rispetto al lupus c'è anche una sorta di aggressività che soprattutto nella prima ondata, quando siamo rimasti bloccati all'interno delle nostre mura domestiche, è aumentata moltissimo l'aggressività, la violenza anche nel femminile, insomma. Quindi che poi hai trattato in Donne, Mamme, Psicologhe. Sì, sì. Che è un altro poi, libro. Che ha scritto. È l'altro libro, esatto. Sempre di Alpes Italia, che è un'edizione abbastanza importante per la psicologia, ecco. Sì, perché sono entrambi nella collana Psiche d'intorni. E questo altro libro si chiama Donne, mamme, psicologi, visto che l'abbiamo nominato, parlo brevemente. Dal sogno al lavoro, come ci siamo riuscite, perché in realtà coniugare l'essere donna, quindi la parte nostra femminile, indipendente, creatrice, viva, insomma, con l'essere mamma, quindi con la responsabilità anche della crescita di altri esseri umani, diciamo così, e essere psicologhe, psicoterapeuti, insomma, avere la responsabilità comunque di una crescita personale, professionale, anche di altre persone, coniugare tutta questa complessità è un po' complesso, no? E quindi il fatto di esserci riuscite credo che sia per pochi, nel senso che già gli psicologi sono tantissimi, le psicologhe sono tantissime e non tutte lavorano. Allora, per questo ho cercato di chiedere contributi alle mie colleghe di poter raccontare qual è stato il percorso del loro sogno, come sono riuscite a trovare le strategie, le risorse per poter organizzare e strutturare la realizzazione, insomma, di questo sogno, un po' come se fosse una coperta patchwork, perché in realtà c'è un sacco di creatività. Io sono una persona creativa, insomma, trapela questa creatività in tutte le professioniste che hanno partecipato al progetto. Elena, noi ti ringraziamo, perché temo che la pubblicità ci imponga una pausa a metà trasmissione. E questa pausa aumenterà la willing suspension del nostro pubblico che accorrerà ad approfondire, naturalmente, dotandosi del libro stesso. Ti saluto. Grazie, Elena. E noi andiamo in pausa. Saluti a Venezia. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao. Stagione teatrale 2021 di Creva il Core. Eccoci qua, siamo tornati e siamo tornati. Abbiamo salutato, siamo con Maria Letizia Rotolo, Luana Giannini, abbiamo appena salutato Elena Grimaldo e stiamo parlando di Covid e effetti psicologici e del ruolo degli psicologi in questo delicato periodo. La nostra ospite, che è stata finora silente, è Luana Giannini. Adesso vogliamo sentirla, perché lei ci parlerà di una cosa interessantissima, che è una sigla misteriosa che si chiama EMDR, che starebbe per Eye Movement Desensitization. Grande, l'hai detto benissimo, brava. E c'è and reprocessing. E reprocessing, perfetto. Very good. Dici di che cosa si tratta invece in italiano. Allora, in italiano si dice desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari. Ed è un approccio terapeutico evidence-based che è raccomandato dall'OMS e che mi ha permesso comunque di scrivere due casi clinici all'interno del libro, proprio perché si occupa del trauma e dello stress traumatico e causava proprio in questo periodo che abbiamo attraversato, che è quello della pandemia, in cui abbiamo visto comunque l'effetto del Covid su tutti noi, quindi non solo noi che vivevamo nelle case, ma anche noi come professionisti, quindi bene o male ha avuto un effetto a cascata su tutti, che ci ha anche comunque permesso di avvicinarti, di avere forza tra di noi per andare avanti. Però per parlare bene, magari farò un piccolo riassunto, perché sennò parlare dell'MDR è molto vasto e noi abbiamo solo poco tempo. 25 minuti a cui si toglieranno anche quelli delle menzioni, per cui pochissimo, perché è fitto il programma della puntata. Fittissimo. Vai. Ok. Allora, come dicevo, appunto l'MDR è un approccio terapeutico e consente di individuare quali sono i ricordi nelle reti nelle reti neurali, sì. Grazie, scusate, sono un po' emozionata, è la prima volta che parlo in radio. Ah, è fantastico, guarda Pasquini, che facciamo un effetto quasi paralizzante sui nostri ospiti, questo aumenta naturalmente il nostro ego. È la mia faccia severa qui, esatto, di qua dalla console. Ci bulleremo per settimane e settimane di questo effetto. Ok, grazie. Quindi si vengono congelate nelle reti neurali, per cui attraverso una stimolazione bilaterale, che può essere mediante dei movimenti oculari o attraverso una stimolazione differente, questo permette di accedere alle informazioni disfunzionali, al tempo stesso ci consente di sbloccarle, di desensibilizzarle e di elaborare il ricordo. Non so se è partito qualcosa qua inaspettatamente. Fantastico. Ok. Ed di elaborare i ricordi traumatici in modo adattivo. Quindi cosa significa? Che inizialmente l'immagine che la persona può portare ha un grande impatto a livello emotivo, cognitivo, a livello corporeo, quindi il trauma non è solo, come vediamo, investe tutta la persona in vari aspetti. Quindi cosa accade? Che attraverso una desensibilizzazione il contenuto emotivo cambia, l'impatto stesso emotivo cambia, i pensieri intrusivi si abbassano e l'emozione che vive la persona è molto diversa. La persona sente che quello che è accaduto è comunque nel passato e, come dice la parola stessa dell'MDR, è quello di lasciare appunto il passato nel passato. Questo consente alla persona di promuovere dei comportamenti adattivi e di avere anche un maggior benessere. E, comunque ho notato nel mio lavoro come terapeuta che l'MDR è molto efficace sia per quanto riguarda il Covid, quindi siamo presenti nel grande trauma, che anche nei piccoli traumi che possono essere come ad esempio quelli relazionali. Fantastico, guarda, è interessantissima questa cosa, Pasquini, ti devo dire che io ho appena finito di leggere un libro di cui tra parentesi si parlerà stasera a Letture Selvagge, che forse i nostri ascoltatori da altre trasmissioni sanno cos'è, che si chiama Pechino Pieghevole, dove uno dei racconti è esattamente su questo tipo di tecnica. Poi è un romanzo di fantascienza, quindi prende naturalmente delle pieghe surreali e al limite dell'inquietante, però è molto up to date questa, diciamo, questa ricerca, direi. Comunque voi altri leggete troppo per i miei gusti. L'angolo della menzione. Dunque, abbiamo due menzioni. La prima è di stasera. Stasera, per chi ha deciso di non stare in casa, dalle 21 alle 22 c'è una performance di Edoardo Ciaralli che si chiama Pestifero. Alla gelateria Sogni di Ghiaccio in via Tanari Vecchia 5A, e naturalmente dovete andare, è in via Tanari Vecchia 5A e non c'è alcun tipo di altre possibilità, dovete andare e basta. Mentre invece da mercoledì 7 luglio abbiamo una nuova mostra, un nuovo evento chiamato SecMet La Potente, una leonessa in città, che è un'iniziativa promossa dal Museo Civico Archeologico Istituzione Bologna Musei in collaborazione col Museo Egizio di Torino. Amenhotep III, uno dei faraoni più noti della 18ª dinastia, fece realizzare varie centinaia di statue rappresentanti Sekhmet, la potente e terribile divinità egizia a testa di leonessa. Fatto sta che ne abbiamo una che arriva dal Museo Egizio, alta più di 2 metri, che arriva appunto dal 7 luglio fino alla fine del 2023. La statua colossale troneggerà nell'atrio monumentale di Palazzo Galvani, accogliendo e proteggendo i visitatori, e andrà ad arricchire un importante repertorio di materiali lapidei esposto all'ingresso del museo. Per i visitatori del museo è ancora in essere, inoltre, Oltre le bende, storia di un antico egiziano, che sarebbe un intervento conservativo affidato a Cinzia Oliva, che si svolgerà dal 12 al 16 luglio e anche dal 30 agosto al 3 settembre. E praticamente quando voi andate al Museo Civico Archeologico trovate la restauratrice che sta restaurando questa mummia. La cosa è abbastanza fantastica. Naturalmente troverete tutti i dettagli sempre su www.coxospaziale.blogspot.com. Dopo vi di che vi rialzo il microfono così potete parlare in diretta e continuare a raccontarci di questo libro e di tutte questi drammi legati al Covid, che effettivamente sono tanti. Sono adesso tanti, cominciamo ad avere una sorta di parvenza di normalità, ma di pseudo normalità che forse è stata raggiunta grazie anche in parte a queste tecniche di cui ci stava parlando Luana Giannini a proposito di EMDR. Sì, volevo dire un'ultima cosa, che quella che tutti noi come individui elaboriamo comunque in modo naturale le nostre informazioni, come ad esempio attraverso i sogni. Quindi l'MDR si basa sul modello adattivo dell'informazione, secondo cui l'uomo dentro di sé ha già questa capacità innata di trasformare le informazioni in modo che diventano delle risorse. Quindi le nostre esperienze, anche se sono esperienze negative, il nostro capacità cognitive, emotive e corporee ci consentono di individuare delle risorse. Queste risorse noi le possiamo mettere in campo nella nostra vita quotidiana. Il problema è quando questo processo resta bloccato, ed è qui che interviene l'MDR, cioè riattivare il processo stesso e sbloccare l'informazione, elaborarla e far sì che la persona possa ritornare nella propria quotidianità in modo molto positivo. Infatti, ma io in effetti un po' la sapevo questa cosa, che noi abbiamo un sacco di potenzialità e non le sfruttiamo. Io per niente. Sì, io ancora meno, figuriamoci. Figuriamoci. Ma con Maria Luzia Rotolo avevamo anche un po' in mente di parlare di arte, no? Sì, volevamo chiamare un attimino la nostra artista. Magari metto uno stacchetto intanto che voi la chiamate. Cosa ne dite? Così, facciamo così. Che cosa ascoltiamo stavolta? Ah, stavolta ascoltiamo Boris Johnson is a fucking cunt dei Cunts. Fantastico. Sentite qua. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. Yes, he's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. Yes, he's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. Yes, he's a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. Yes, he's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. Yes, he's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. He's a fucking cunt. He's a fucking cunt. Boris Johnson is a fucking cunt. Bene, assodato che Boris Johnson is a fucking cunt, cosa che noi in effetti sospettavamo già da tempo. Un pezzo fantastico. Devo dire aver dimenticato la chiavetta delle mie canzoni. Ma poi questo autore che cosa ha passato dopo questo pezzo? Non lo so, probabilmente è già morto. È seduto di fianco a Julian Assange nel carcere di Belmarsh. È possibile. Ma intanto noi siamo andati avanti qua con la nostra attività di ricerca telefonica e siamo al telefono con l'autrice della copertina di questo libro di cui stiamo parlando, Verità e segreti del Covid-19, a cura di Elena Grimaldo, Roberto Pozzetti, Maria Letizia Rotolo. E l'autrice è Loredana Storani, che è al telefono con noi. Non è solo l'autrice della copertina, ma ha scritto anche un libro sulla la scuola, perché lei è anche insegnante, artista, insegnante. Insegni arte a scuola? In quale ordine di scuola? Sai che noi siamo dei grandi sostenitori degli insegnanti di tutti gli ordini e i gradi. Sì, dunque io, buonasera a tutti, io mi chiamo Loredana Storani, insegno in un istituto superiore al Giovanni Rubiani, indirizzo moda, quindi ho a che fare tutti i giorni con ragazzi adolescenti con i quali lavoro quotidianamente, diciamo. E che insegni arte, insegni cosa insegni? Dunque io insegno disegno, storia della moda. Disegno storia della moda, ho una classe terza, quarta e quinta con la quale collaboro praticamente tutti i giorni. Insegno loro, ecco, tutto quello che è la tecnica del disegno, della storia della moda e, diciamo, dell'evoluzione della moda nei secoli, dall'antichità fino ai giorni nostri, ecco, e analizzando invece percorsi. Sì? E invece, in occasione di questo, diciamo, di questo, dell'uscita di questo libro, hai disegnato la copertina, ma hai anche scritto un libro, capisco, da stiamo scrivendo un libro stiamo scrivendo un libro. No, lei ha scritto l'articolo sulla scuola. Sì, l'articolo. Sì, in questo articolo, se posso brevemente parlare, diciamo che ho analizzato la DAD dal punto di vista dell'insegnante come, diciamo, tra virgolette, un malessere vissuto nel non poter avere un rapporto diretto con i ragazzi, perché la scuola è fatta sul campo, la scuola è qualcosa che mette in contatto le persone, anche perché noi insegnanti, diciamo che abbiamo il grande onore di crescere delle generazioni, quelli che saranno poi i cittadini di domani, e di conseguenza non poter avere un contatto diretto con i nostri ragazzi, con i colleghi, con tutto il mondo della scuola, ci ha penalizzato molto nel nostro lavoro, perché crediamo fortemente nella socialità, nell'inclusione. Tutto ciò è venuto a mancare a causa dell'isolamento, ecco, della DAD. Devo dire che il mio istituto è stato sempre aperto, perché abbiamo dato la possibilità ai giovani, ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi diversamente abili, di frequentare tutti i giorni. Quindi la nostra scuola ha chiuso soltanto durante il primo lockdown. Dopodiché è stata sempre aperta, proprio per essere un campo di inclusione e dare l'opportunità a chiunque, ragazzi accompagnati anche dai compagni preferiti, ecco, di poter frequentare tutti i giorni la scuola. Proprio fantastico. Per mantenere il contatto diretto con loro. Sì, sì, penso che tutti gli insegnanti del mondo concordino su questa lettura del disagio nostro, del disagio degli studenti, insomma, e delle varie problematiche che a tutti i livelli questa situazione ha creato, anche se ci siamo impegnati, direi, allo spasimo e a oltranza per cercare di sopperire. E invece il tuo lavoro di artista, questa copertina? Allora, dunque, per fare la copertina che la dottoressa Maria Letizia Lottolo mi ha gentilmente chiesto di realizzare, dunque io ho pensato in primo luogo alla Gestalt, perché la Gestalt è quella scuola, come la chiamo io, che ti consente di avere una visione plurisfaccettata di un oggetto reale, con degli effetti di sovrapposizione di immagini, lavorando molto sulla percezione visiva. Quindi ho voluto fare un gioco grafico in cui si riuscisse a percepire proprio questo contrasto tra il reale e quello che noi immaginiamo, perché in fin dei conti noi del Covid abbiamo vissuto la realtà, però abbiamo anche dovuto sviluppare una forte immaginazione per tutti i messaggi che ci arrivavano ogni giorno dai mass media, e di conseguenza, ecco, questo essere visibile, non visibile, pieno, vuoto, davanti, dietro, mi ha ispirato per questa copertina, e ho scelto il rosso come elemento simbolico perché simboleggia il pericolo, però simboleggia anche la passione che io penso che vada attribuita alla scienza, perché credo fortemente nella ricerca, e di conseguenza il rosso l'ho associato alla ricerca scientifica come messaggio di speranza più che di pericolo. Benissimo. Ecco, quindi questa ambivalenza tra pericolo, forza, coraggio, sangue, ecco questo. Coniamo quindi qui una nuova sfumatura di rosso, il rosso scientifico. Sì. Il rosso scientifico. Bravissimo. Fantastico. Esattamente. Fantastico. Fantastico. Tra l'altro devo dire che durante la prima ondata, quindi durante il primo lockdown, io ho sentito diverse persone che erano veramente anche un po' in uno stato di inquietudine rispetto a questa immagine che veniva proposta a più non posso da tutti i media del Covid, no? di questo affare puntuto, e aveva seminato un po' di panico in sé, proprio il potere delle immagini si era infilato e insinuato nella coscienza insieme alle paure, incarnando un po' le paure che la pandemia ovviamente ci fa, perché è come ovvio. Ti ringraziamo, Loredana, del tuo intervento. Abbiamo ancora una decinata di minuti, forse, se Maria Letizia Rotolo voleva. Grazie, Lore. Buona serata. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, io volevo dire due piccole considerazioni. Abbiamo parlato molto di colori, io mi sono occupata molto dei sogni. I sogni compensatori, che comunque riguardano la prima ondata e riguardano anche le persone che sono in uno stato di prostrazione, di malattia, sognano molto colorato. Dovremmo ricordare ad esempio Andrea Camilleri, che a un certo punto della sua vita, verso la fine, è diventato cieco. L'unico momento in cui rievocava i colori era durante il sogno, in cui sognava questi clown coloratissimi che rappresentavano la gioia e la serenità. E durante i sogni contagiati, anche i sogni di coloro che sono in uno stato di prostrazione, se c'è un atteggiamento comunque speranzoso, quali colori prevalgono? Il giallo, perché il giallo è l'elemento, diciamo, rappresenta l'archetipo del sole, della liberazione, e della luce. È libertà allo stato puro, anche se Kandinsky mi sembra che abbia definito che sia il colore dei folli, dei visionari. Non mi guardare con quest'aria interrogativa, che mi stai spiaffrando completamente. Io sto facendo come gli studenti quando il prof inizia esatto. A cercare a chi fare la domanda. Mi sono concentrata tantissimo sui miei appunti, no? Sto qua con lo sguardo fisso perché ma ci fidiamo di Maria. Ma perché ha questo elemento così chiaro che va verso sfuggente, mentre il blu ha un elemento più di introspettivo, il giallo ha questo elemento sfuggente di fuga. Poi abbiamo parlato del rosso. Il rosso, anche questo era tra i sogni colorati molto presente, perché in realtà non è il segnale, come diceva Loredana, del pericolo, ma è un colore che viene scelto secondo la psicologia del colore dai bambini, dai ragazzi fino ai 25 anni. Quindi scegliere il rosso vuol dire scegliere elementi estremamente vitali. Quindi questa piccola digressione a proposito dei sogni colorati. Un'altra cosa che volevo approfondire è che noi abbiamo trattato molto il mondo delle relazioni, che è cambiato durante le varie ondate. Adesso sta cambiando perché tutti stanno uscendo, tutti stanno, diciamo, riacquisendo una vita normale. Cosa succedeva durante le varie ondate? Succedeva che noi potevamo quello che si chiama il reverse ghosting. Il ghosting è una parola inglese che significa diventare fantasma, che sono coloro che soprattutto succedono tra i ragazzi, ma anche tra gli adulti, che magari a un certo punto nelle relazioni, che non sono soltanto, diciamo, di tipo amoroso ma anche amicale, bloccano senza spiegazioni, se ne vanno senza spiegazioni, senza un finale. E questo è diciamo perché si ha paura un po' della dipendenza. Durante il periodo delle varie ondate della pandemia invece abbiamo assistito al fenomeno inverso, cioè il reverse ghosting, cioè praticamente persone che non sentivamo da tempo, che magari non avevamo neanche avuto degli ottimi rapporti, che improvvisamente riappaiono e magari che cosa vogliono da noi? Cosa vogliono? vogliono fare pace, vogliono chiedere scusa, vogliono fare sta carambata, tipo c'è posta per te. Oppure si stanno annoiando. hanno un bel ricordo che ci lega, ci sono stati questi Zoom party famosissimi, questi ragazzi si incontravano con gli aperitivi, eccetera. Ma poi dopo la pandemia, cosa è successo? Cosa sta succedendo? Che poi ognuno poi rifrequenta le persone che normalmente frequentava. Quindi questo è un po', è un aspetto un po' brutto, narcisistico, no? dell'ambito relazionale. E poi anche nel senso molti single, molti oppure nelle coppie c'è stato un 40% di coppie che si sono separate. 40%? Sì, 30-40%, mi hanno detto non degli pochi avvocati. E cosa facevano quelli che avevano l'amante? Si incontravano quando andavano a buttare il rusco in fila al supermercato, ho degli esempi concreti, oppure portare fuori il cane. Però non riveliamo perché sono gli amanti. Ma ci sono studi clienti, diciamo senza nome e cognome. Però insomma questo problema anche della sessualità repressa adesso. E poi tutti si sono iscritti a Tinder, anche le persone che erano un po' contrarie, più insospettabili. Diciamo che tu sei iscritta a Tinder? No, in questa... io non so neanche che cos'è Tinder sinceramente, però so che alcune relazioni si sono spostate nel regno dell'incorporeo. È successo anche questo, credo. Chiaro, non so poi chiaro se ne parla nel libro, sì, però anche perché il rischio del corporeo c'era, per cui, il rischio del corporeo, quindi prima c'era il divieto del corporeo, poi resta il rischio del corporeo e quindi l'incorporeo manca diventa... giusto il rischio dell'incorporeo, facciamo filotto. No, l'incorporeo è diventata una realtà forse in alcune situazioni, poi non so, vedremo nel tempo come si sviluppa il tutto. Abbiamo ben 3 minuti, come li vogliamo spendere questi 3 minuti residui, che magari dalla parte tua sono anche meno? Ricordando magari il titolo del libro e dove lo troviamo questo allora, libro? Allora, il libro lo troviamo nelle librerie, magari. Nelle librerie, ma lo troviamo molto in rete. Molto in rete faremo... Perché esiste anche un ebook? No, l'ebook non li facciamo, no. Questa casa editrice non fa ebook. Faremo un incontro, abbiamo fatto un incontro anche con politici la prossima settimana Facebook. Nella nostra pagina Verità e Segreti con Covid c'è una diretta col presidente dell'ordine degli psicologi che riguarderà appunto ruolo, esperienze degli psicologi nel post-Covid, soprattutto per quanto riguarda le persone che continuano a avere dei sintomi, che hanno avuto il Covid. Allora, e gli effetti della deprivazione sensoriale, effetti che ci portiamo magari avanti nel tempo. Noi lo troviamo quindi online su Amazon, su Libraccio, su tutte, e poi lo troviamo anche su nelle librerie, chi può vada a comprare nelle librerie, sì, perché infatti si può ordinare. Noi siamo sostenitori delle librerie più che delle piattaforme. Certo, ci sarà con uno sconto, tra l'altro a un prezzo accessibilissimo, e volevo ringraziare il nostro l'editore Roberto Ciarlantini, che è sempre stato molto disponibile e ci farà fare studi ulteriori, soprattutto per quanto riguarda la storia del movimento dei Novax, perché il Novax c'è tutta una storia dietro che è molto interessante saperla. Bene, questo mi intriga parecchio, vorrei saperne di più. Ok, e dunque ci vorrà una nuova puntata di Cox Spaziale sui Novax. Cosa facciamo, ne la puntata, però forse dobbiamo 742. No, dobbiamo chiedere il permesso per fare una puntata sui Novax, forse. Non lo so. Perché comunque è un tema delicato. Questo deve essere assolutamente neutrale, senza giudizio. Ah, certo. No, certo, infatti noi abbiamo un approccio scientifico. scientifico, sai che la scienza è rosso scientifico, ormai sarà per sempre il nostro colore, quindi in un programma di arte e teatro più rossi di così non potremmo essere. Bene, ma ringraziamo allora le nostre ospiti, Luana Giannini, Maria Letizia Rotolo, quelle che ci hanno e anche al telefono Elena Grimaldo e Loredana Storani. Questo era Cox Spaziale, io ero Chiara Pergola oggi. E io ero Stefano W. Pasquini. E naturalmente ci sentiamo di nuovo lunedì prossimo, come al solito, sempre dalle 19 alle 20. Grazie mille di essere state qui con noi. Grazie a voi, grazie. A prestissimo. Grazie. From the back.